L'ostinatezza. Il capitolo 15 del libro di 1 Samuele in merito al primo re di Israele, Saul, narra un episodio che costituisce un vero e proprio giro di boa nella sua vita. Fino a quel momento il re era andato nella direzione giusta, ma tale evento ne segnò la retrocessione. Cosa accadde? Eletto re di Israele dal profeta Samuele e per volontà del popolo, Saul fu dapprima unto in privato dal profeta e, in seguito, confermato re davanti a tutto il popolo. Da quel momento Saul, con molta umiltà e coraggio, si mise alla testa del popolo e lo condusse a compiere imprese belliche di un certo valore. Man mano che tutto si svolgeva per il meglio, in Saul nascevano due grandi radici velenose che, per crescere, creano una sete insaziabile, sete di potenza e sete di onore. Il primo accenno lo si nota quando, impaziente, non aspettò Samuele e, trasgredendone l'ordine, offrì lui stesso un olocausto all'Eterno. 1 Samuele 13:8. Ma Saul rivelò il suo smoderato orgoglio quando Samuele, parlando da parte di Dio, gli ordinò di distruggere il popolo degli Amalechiti, votando a morte tutto ciò che aveva respiro, cioè animali e uomini. Saul sconfisse gli Amalechiti, però lasciò vivo il re e gli animali migliori. Dio ne fu grandemente rattristato e ordinò a Samuele di comunicare al re Saul la sua decisione di destituirlo dall'incarico di reggente. Saul rifiuta la decisione di Dio e risponde: «Ma io ho ubbidito alla voce dell'Eterno, compiuto la missione che l'Eterno mi aveva affidato, ho riportato Agag re Bilè di Amalek e ho votato allo sterminio gli Amalechiti. Il popolo però ha preso le cose migliori che avrebbero dovuto essere sterminate, per farne sacrifici all'Eterno, il tuo Dio, a Gilgal». Samuele disse: «Gradisce forse l'Eterno gli olocausti e i sacrifici come l'ubbidire alla voce dell'Eterno? Ecco, l'ubbidienza è migliore del sacrificio, e ascoltare attentamente è meglio del grasso dei montoni. Poiché la ribellione è come il peccato di divinazione, e l'ostinatezza è come il culto agli e agli dei domestici, poiché hai rigettato la parola dell'Eterno, anch'egli ti ha rigettato come re». 1 Samuele 15:2023. La risposta del profeta Samuele è tagliente e inesorabile. Una risposta adeguata al comportamento disubbidiente di Saul e al suo conseguente tentativo maldestro di giustificarsi. Dio non gradisce che un suo servitore agisca secondo la propria logica, perché nella disubbidienza vi è la ribellione, che conduce all'ostinatezza, due degli atteggiamenti più gravi paragonabili, niente meno che alla magia, al culto degli idoli e degli dei domestici. Se adorare il vero Dio rappresenta la più alta espressione di fede, la disubbidienza e l'ostinatezza portano all'espressione più bassa e indegna di un adoratore. Samuele non poteva dire di peggio a Saul. L'ostinatezza. L'ostinatezza è una parola il cui significato risulta arricchito quando ne consideriamo la derivazione da una parola greca che ha come prefisso il termine scleros, dal quale poi proviene il termine sclerotico, cioè indurito. L'ostinato è dunque colui che è caparbio, testardo, duro di cervice. Samuele dichiarò Saul ostinato, perché aveva più volte disubbidito all'ordine di Yahweh, e, per questo suo atteggiamento, Dio lo aveva rigettato come re. Si potrebbe anche essere comprensivi con il re Saul, perché disubbidire capita a tutti. Ma l'atteggiamento così inflessibile di Dio era dato dal fatto che essere ostinati è per lui equivalente a adorare degli idoli. Con questa visione divina è comprensibile perché l'Eterno Dio sia stato così rigido nel giudicare il Faraone, il quale almeno per 10 volte ha visto la mano di Dio nella sua vita, così come si può comprendere il severo giudizio di Dio nei confronti dell'incredulo, dopo che questi ha indurito il cuore dinanzi alla voce della persona dello Spirito Santo. Ecco la ragione dell'accorato appello di Dio. Perciò, come dice lo Spirito Santo, oggi se udite la sua voce non indurite i vostri cuori come nella provocazione, nel giorno della tentazione nel deserto, dove i vostri padri mi tentarono mettendomi alla prova, pur avendo visto per 40 anni le mie opere. Perciò mi sdegnai con quella generazione e dissi: errano sempre col cuore e non hanno conosciuto le mie vie. Così giurai nella mia ira. non entreranno nel mio riposo. Ebi 3.7.11 da ricordare che non è Dio a mandare alla perdizione eterna l'uomo, ma è l'uomo a dirigersi verso la condanna eterna, e Dio, nella sua misericordia, più volte parla all'uomo per indurlo a cambiare direzione, ma l'uomo sclerotizza, cioè indurisce il suo cuore al punto di non essere in grado di accogliere la parola di Dio. Con tremenda realtà, il libro dei Proverbi ne traccia il quadro: beato l'uomo che teme continuamente l'Eterno, ma chi indurisce il suo cuore cadrà nella sventura. Prov 28.14. E ancora, l'uomo che irrigidisce il collo, quando è ripreso, sarà improvvisamente spezzato senza alcun rimedio. Prov 29.1. Da come si evince, l'ostinatezza non è un peccato, o un atteggiamento di poco conto, come la marachella di un bimbo che ruba la marmellata, o dice una bugia, ma essa porta a conseguenze drastiche, spirituali e fisiche, molto serie. Conviene risolutamente rispondere alla volontà di Dio e non rattristare la voce e l'azione dello Spirito Santo. L'ostinatezza è purtroppo denunciata pesantemente nei discorsi di Gesù e nelle lettere degli Apostoli. Chi legge abitualmente la Bibbia a volte non nota certe frasi, le quali non fanno altro che mettere in risalto la gravità di questo atteggiamento. Quando Gesù disse: Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi quelli che ti sono mandati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli, come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali, e voi non avete voluto. Mt 23.37. Il voluto di Gesù non è riferito ad una volontà istantanea e occasionale, ma un rifiuto ostinato al quante volte ho voluto di Gesù. Non è stato un rifiuto ad un solo invito, ma un numero di rifiuti pari a quante sono state le offerte. Il Dio dei cristiani non invita al ravvedimento una sola volta, per poi voler dimostrare la durezza dei cuori, ma egli parla più volte, in molti modi e in molte maniere. E solo quando vi è da parte dell'uomo un rifiuto recidivo, lo lascia con lacrime e dolore al suo destino. Il profeta Geremia lo dice con queste parole: ma se non ascoltate questo, l'anima mia piangerà in segreto a motivo del vostro orgoglio, i miei occhi piangeranno a dirotto, e si scioglieranno in lacrime. Perché il gregge dell'Eterno sarà deportato. Geremia 13.17. Si potrebbe pensare ad un discorso del profeta, o a un ragionamento antropomorfico di Dio, un discorso allegorico privo di alcun valore reale, ma quando si leggono i Vangeli non è possibile rimanere di questa opinione. Soprattutto nella vita di Gesù, Dio fattosi carne. Così leggiamo nel Vangelo di Luca: quando fu vicino, vedendo la città, pianse su di essa dicendo: «Oh, se tu sapessi, almeno oggi, ciò che occorre per la tua pace, ma ora è nascosto ai tuoi occhi. Poiché verranno su di te dei giorni nei quali i tuoi nemici ti faranno attorno delle trincee, ti accercheranno e ti stringeranno da ogni parte. Abbatteranno te e i tuoi figli dentro di te e non lasceranno in te pietra su pietra, perché tu non hai conosciuto il tempo nel quale sei stata visitata». Luca 19.4-1.44. È vero che i Vangeli raccontano che Gesù versò le lacrime solo in occasione della morte di Lazzaro, ma se il profeta Isaia lo ha descritto come un uomo di dolore e familiare con la sofferenza, i pianti di Dio Gesù sono molto di più di quelli che possiamo immaginare. Pianti espressi in molti modi, come per esempio in quel un giorno di sabato, quando entrò nella sinagoga e, vedendo un uomo con la mano secca, chiese ai presenti se era giusto guarire un malato, tuttavia essi tacevano. Allora, è scritto, egli, guardatoli tutti intorno, con indignazione rattristato per la durezza del loro cuore, disse all'uomo di stendere la mano, e la mano fu risanata, come l'altra. Anche in questo caso Gesù soffrì per l'ostinatezza dei presenti. Quando un giorno tutti gli esseri viventi saranno giudicati da Gesù, sia credenti sia increduli, tutti saranno trovati mancanti, io compreso. Questo sarà inevitabile, perché tutti abbiamo per nascita una natura corrotta, che continuamente ci spinge a compiere ciò che non è giusto. Di questo Dio è cosciente, come è scritto, poiché egli conosce la nostra natura. Egli si ricorda che siamo polvere. Salmo 103.104. Questo mi rende molto più sereno, sapendo di essere giudicato da un Dio comprensivo e pieno di misericordia, ma, nello stesso tempo, possiedo nel cuore un santo timore di non cadere nell'ostinatezza, sapendo in questo caso di non ricevere alcuna comprensione e misericordia. Ringrazio il mio Dio per mezzo di Gesù, perché non sono stato ostinato quando, convinto di peccato dalla persona dello Spirito Santo, ho confessato il mio errore nel non vivere sotto l'autorità di Cristo. Vivevo a modo mio, senza piacere a Dio, però anche se ho ubbidito alla chiamata dello Spirito di Dio, vi è ancora un'altra ostinatezza che posso commettere, ed è quella di non vivere sotto l'impulso dello Spirito Santo. Addirittura mi è possibile agire contro, resistendo. Atti 7,51, contristando, Efesini 4,5, Isaia 63, 10, tentando, Atti 5, 9, spegnendo, 1 Tessalonicesi 5 e 19, mentendo, Atti 5, 3, oltraggiando, Ebrei 10 e 29, e bestemmiando, Matteo mezzogiorno e 31, la persona dello Spirito Santo. Per questo l'ostinatezza è l'atteggiamento dal quale dobbiamo guardarci fino alla fine della nostra esistenza. Nel libro degli Atti è ricordata l'ostinatezza di due sposi, Anania e Saffira, i quali per questo morirono sul colpo, e anche quella di un uomo, Simon Mago, il quale pensava di poter comprare il dono di comunicare lo Spirito Santo, ragione per cui Pietro lo ha invitato a pregare Dio affinché, se fosse possibile, fosse perdonato il pensiero del suo cuore. Atti 8.2. 2. Quando Dio parla, si è responsabili di ubbidire. Esiste la scusa di non sapere e di non comprendere quando Dio parla, ma quando senti insistentemente dentro di te di dover compiere o dire qualcosa di giusto e santo, che onora Dio e il Vangelo, allora è conveniente ubbidire. E meglio sbagliare che essere ostinati. Se si sbaglia, anche questo errore tornerà utile per comprendere la volontà di Dio. Mentre, se si rimane ostinati, non ci sono scuse. Guardiamoci dall'ostinatezza. Dunque, la quale può portarci sia alla perdizione, sia a perdere tanti privilegi preparati da Dio per coloro che lo amano. Febbraio 2012. Ellero.